Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. 1947, allarme rosso a Hollywood, McCarthy vs. Brett. Di Sergio Basile, con Gianmarco Sammartino, Elena Fanucci, Giulia Pera. Spettacolo inserito nella rassegna teatrale I giorni della Comune a Roma al Teatro Studio 1 dal 2 al 26 maggio 2019. Il mio nome è Bertolt Brecht. Sono nato in Germania, ad Augsburg, il 10 febbraio 1898. Mio padre era un industriale. Ho studiato scienze naturali e filosofia presso le università di Monaco e di Berlino. Quando avevo 20 anni ho partecipato al primo conflitto mondiale come infermiere e scrissi una poesia che 15 anni dopo servì al governo di Hitler per espellermi dalla Germania. La poesia si chiamava La ballata del soldato morto, in cui attaccavo la guerra e coloro che volevano proseguirla. Cominciai ad occuparmi di teatro, a scrivere drammi. Subito dopo la guerra la Germania sembrò avviarsi verso una democrazia. Vi era libertà di parola e di espressione artistica, ma già nella seconda metà degli anni venti le forze reazionarie e militariste ricominciarono a guadagnare terreno. E si potevano sentire voci che chiedevano che la libertà di parola e di espressione artistica fossero messi a tacere. La Repubblica di Weimar, qualsiasi cosa si possa dire, vantava uno slogan molto potente, accettato da intellettuali, artisti: l'arte appartiene al popolo. I lavoratori tedeschi, infatti, costituivano il nucleo maggiore di lettori di libri e di spettatori a teatro. Le loro sofferenze durante la terribile crisi economica del 29, che aveva messo in discussione il loro livello culturale, mi affliggeva, mi disperava. Cominciai a scrivere poesie, drammi, canzoni in cui si rifletteva lo spirito del popolo tedesco e combattevo i loro nemici che già marciavano sotto la croce uncinata di Hitler. Quando Hitler prese il potere, molti pittori non poterono più dipingere. Case editrici e case di edizione cinematografica finirono nelle mani del partito nazista. Cominciarono persecuzioni di intellettuali, di artisti. Furono inscenate vere e proprie cacce alle streghe, idee socialiste, umanitarie, cristiane, furono considerate non tedesche, andeutsch. Non posso dimenticare come Hitler pronunciava questa parola. Fui costretto a scappare dalla Germania nel febbraio del 1933, il giorno dopo l'incendio del Reichstag. L'esodo di attori, intellettuali, artisti tedeschi come il mondo non aveva mai visto, ebbe inizio. Mi rifugiai in Danimarca e cominciai a scrivere per combattere Hitler. Poesie, drammi, alcune poesie furono introdotte clandestinamente in Germania. E allora il partito nazista danese, in collaborazione con l'ambasciata tedesca di Copenaghen, chiese la mia espulsione dalla Danimarca, ma il governo non la concesse. Era il 1939, la guerra era alle porte. E allora decisi di accettare di andare in Svezia su invito del senato svedese e del sindaco di Stoccolma. Ma in Svezia ci sono stato soltanto un anno, perché Hitler aveva conquistato la Danimarca e la Norvegia. Allora, con la mia famiglia, cercavo di fuggire sempre più a nord, in Finlandia, e aspettare lì il visto d'ingresso negli Stati Uniti. La Finlandia pululava di truppe naziste quando nel 1941 riuscimmo a scappare. Attraversammo l'Unione Sovietica sul Siberian Express in compagnia di cecoslovacchi, austriaci, tedeschi, tutti scappavano. Ci imbarcammo su un cargo svedese da Vladivostok e 10 giorni dopo venimmo a sapere che Hitler aveva invaso l'Unione Sovietica. Facemmo richiesta di cittadinanza americana il giorno dopo per l'Harbor. Suppongo che i miei drammi e le mie poesie scritte in quel periodo abbiano spinto la commissione per le attività anti-americane a spiccare contro di me un mandato di comparizione, ma tengo a precisare che tutta la mia attività, anche quella contro Hitler, è sempre stata un'attività letteraria e puramente indipendente. Come ospite degli Stati Uniti d'America, io mi sono rifiutato di fare attività politica, assolutamente. Io non sono uno sceneggiatore. Hollywood ha utilizzato soltanto un mio soggetto dove si descriveva l'atrocità della dominazione tedesca a Praga. Non credo di avere influenzato in alcun modo l'industria cinematografica statunitense, né in campo culturale né in campo politico. Ma adesso che mi trovo di fronte a questa commissione, mi sento libero di dire qualche parola sulla situazione americana, guardando indietro al mio passato di drammaturgo, di poeta, negli ultimi 2 decenni in Europa, mi sento di dire al grande popolo americano di stare attento. È un grande rischio concedere a qualcuno di restringere il campo della libera circolazione delle idee, di interferire con l'arte, che per essere arte deve essere libera. Libera. Viviamo un momento molto difficile. Guerre terribili abbiamo sopportato e nuove, dicono, sono imminenti. Forse la prossima guerra spazzerà via il genere umano dalla faccia della terra. Allora, con questi argomenti, perché non permettere che le idee vengano discusse con libertà e con attenzione? Spetta all'arte renderle più nobili e più chiare. Grazie, signor Presidente. Ho finito. Questa è la memoria difensiva di Brecht, che non fu accolta dal Presidente della Commissione per le attività anti-americane, perché ritenuta irrilevante. Il lungo periodo della cosiddetta caccia alle streghe contro i comunisti d'America è passato alla storia sotto il termine di maccartismo, sebbene sia iniziato prima dell'avvento sulla scena pubblica del senatore Joseph Raymond McCarthy, da cui ha preso il nome, e sia finito ben dopo la sua morte. A partire dal 1947, la comunità cinematografica di Hollywood fu sottoposta ad una estenuante indagine mirante a individuare tutti coloro che avevano idee o simpatie comuniste. Le indagini, condotte dalla Commissione per le attività antiamericane e dall'FBI, si basarono su un elenco di personaggi definiti sospetti perché sostenitori di istanze progressiste negli anni precedenti. L'istituzione di questa commissione fu il segnale più evidente della ventata reazionaria tesa ad offuscare il clima progressista dell'amministrazione Roosevelt, il cosiddetto New Deal. E questi personaggi, appunto, furono chiamati a testimoniare di fronte alla commissione con due scopi essenziali: confessare la propria appartenenza al Partito Comunista Americano ed indicare il maggior numero possibile di altri iscritti o simpatizzanti. Il metodo sul quale si basò l'indagine fu quello del terrore, e la minaccia era l'esclusione dal lavoro per tutti coloro che non avessero voluto cooperare con l'inchiesta. Il clima di paura che la Commissione per le attività antiamericane e l'FBI riuscirono a creare all'interno del mondo di Hollywood mirava ad ottenere un meccanismo di reciproca delazione tra i lavoratori dell'industria in modo da poter condannare i sospettati sulla base di testimonianze plurime. Come vedremo, ci fu un attacco in piena regola ai principi cardine dell'ordinamento liberal-democratico statunitense e si arrivò addirittura all'istituzione di campi di concentramento per i sospetti di simpatie comuniste. Ora, sebbene solo pochissimi cittadini conobbero la galera, moltissimi però furono indotti con i mezzi più subdoli a pentirsi e a trasformarsi in delatori, come d'altronde è sempre avvenuto nelle dittature di ogni colore. Così, con la concreta minaccia della perdita del posto di lavoro, della discriminazione sociale, di una pressione psicologica pesantissima, uomini stipendiati pubblicamente e rappresentanti la democrazia americana costrinsero inermi concittadini ad abiurare alle loro idee, giudicate sbagliate, e il tutto sulla base di sospetti più che di prove. Come in ogni caccia alle streghe, non furono poche le vittime casuali, coloro che nemmeno condividevano quelle idee considerate all'epoca sovversive. Così il McCarthyismo nasce dal quadro del mondo diviso in due. Nasce dal blocco di Berlino, 1948, dall'incubo dell'atomica sganciata pochi anni prima su Hiroshima e Nagasaki, dalla paura del comunismo che vince in Cina, dall'inizio della guerra di Corea, 1950. E inoltre non sfuggirono a tale paranoia ossessiva libri, pubblicazioni, riviste, libertà d'espressione e di pensiero. Colpirà tra gli altri, come noto, registi, attori, sceneggiatori. Ci fu, come sempre avviene in questi casi, chi apertamente si schierò con la commissione, vedi Walt Disney, Ronald Reagan, John Wayne, Cecil DeMille. Chi diede prova di viltà, come Gary Cooper. Chi si attestò su una linea grigia compromissoria, chi invece prese esplicitamente le distanze, come Humphrey Bogart. Mankiewicz e John Ford si schierarono contro DeMille, Chaplin e Lucey emigrarono, e tra loro, inoltre, un grande uomo venne incarcerato, Dalton Trumbo, sceneggiatore dello Spartacus di Stanley Kubrick, 1960. Erano passati tantissimi anni, in fondo, dal periodo della cinematografia statunitense impegnata contro il nazismo ed esaltatrice della libertà e della democrazia. Erano passati pochissimi anni, però sembravano secoli. Il sonno della ragione generava i suoi mostri. Il 30 ottobre del 1947 fu il turno di Bertolt Brecht, di cui adesso noi rappresenteremo la testimonianza davanti alla Commissione per le attività antiamericane. Vi presento i personaggi. Bertolt Brecht, poeta e drammaturgo. Robert Stripling, capo investigatore della Commissione. E poiché abbiamo finito gli attori, il presidente John Parker Thomas lo leggerò io. Grazie. Signor Brecht, vorrebbe dirci nome, cognome e indirizzo attuale, per favore? Il nome è Bertolt Brecht. Parli nel microfono, per cortesia. Il mio nome è Bertolt Brecht. Vivo al numero 34 della 73esima strada ovest di New York. Sono nato ad Augsburg, in Germania, 10 febbraio 1898. Signor Presidente, potrei leggere una mia memoria in inglese? Guardi, signor Brecht, la Commissione ha vagliato con cura la sua dichiarazione ed è un racconto di vita tedesco molto molto interessante, ma non è purtroppo pertinente con la nostra indagine, quindi non abbiamo bisogno che la legga pubblicamente. Ora, signor Brecht, vorrebbe dire alla Commissione se lei è cittadino degli Stati Uniti? Non sono cittadino americano, ne ho fatto richiesta ufficiale. Quando? Nel 1941, quando arrivai qui. Qual è la data precisa del suo arrivo negli Stati Uniti? Posso accettarne? Dunque, il 21 luglio a San Pedro, California. Ha ricevuto un visto dal viceconsole americano ad Helsinki il 3 maggio del 1941. Sì, è corretto. E lei è entrato nel paese con quel visto? Sì. Dove risiedeva prima di recarsi ad Helsinki? Signor Presidente, posso leggere la mia dichiarazione perché nella mia dichiarazione... No, signor Brecht, prima dobbiamo procedere alla sua identificazione. Ah, non ci vorrà molto. Dovetti lasciare la Germania nel febbraio del 1933, quando Hitler prese il potere. Allora andai in Danimarca, ma la guerra sembrava imminente. Nel 1939 dovetti partire per Stoccolma, in Svezia. Rimasi un anno. E quando Hitler invase la Norvegia e la Danimarca, dovetti partire per la Finlandia, dove attesi il visto per gli Stati Uniti d'America. Signor Brecht, qual è la sua occupazione? Sono drammaturgo e poeta. E attualmente dove lavora? Non ho lavoro. Ha mai lavorato per il cinema? Sì, ho venduto un soggetto ad una casa di produzione di Hollywood. Anche i boia muoiono, ma non ho scritto la sceneggiatura. Io tengo a chiarire, non sono uno sceneggiatore professionista. Poi ho scritto anche un altro soggetto, ma non è stato prodotto. Anche i boia muoiono. A chi l'ha venduto? A quale casa di produzione? Bah, è stato ad una casa di produzione indipendente, la Pressburger, della United Artists. E quando ha venduto il dramma alle United Artists? Il soggetto? Io non ricordo esattamente, forse tra il 1943-44. E a quali altre case di produzione ha venduto del materiale? A nessun'altra. Proprio nessun'altra. Oltre al soggetto di cui vi ho detto, ho scritto solo per la Enterprise Studio. Conosce Hans Eisler? Johannes Eisler? La domanda su Johannes Eisler, famoso compositore musicale, era probabilmente la vera motivazione per cui Brecht si trovava a dover rispondere alla commissione. Eisler era apparso di fronte alla commissione nel settembre del 47 ed era stato incriminato per falsa testimonianza, con susseguente richiesta di espulsione alle autorità di immigrazione americana. Nel febbraio del 1948 si era tenuta una seconda udienza, che si era conclusa poi con l'emissione di un mandato di deportazione. Ad Eisler ed alla moglie fu concesso di partire volontariamente dopo aver firmato un documento in cui si impegnavano a non fare più ritorno negli Stati Uniti. I coniugi accettarono e il 26 marzo del 48 lasciarono l'America alla volta della Cecoslovacchia. L'esilio degli Eisler rappresentò uno dei primi casi di fuga dagli Stati Uniti di importanti artisti europei, ex profughi di guerra. Da quanto tempo conosce Johannes Eisler? Ma io penso dalla metà degli anni 20, quindi diciamo da 20 anni. Ha collaborato con lui in alcuni lavori? Sì. Signor Brecht, lei è membro del Partito Comunista o lo è mai stato? Prima di procedere con le domande vorrei che fosse messa agli atti la citazione a comparire davanti a questa commissione che le è stata consegnata il 19 settembre. Lei è qui in risposta a una citazione, vero? Sì. Ora le ripeterò la domanda originale. È membro o è mai stato membro del Partito Comunista in qualsiasi paese? Dopo un lungo minuetto di domande preliminari relative all'identificazione del più famoso drammaturgo tedesco, finalmente l'investigatore Stripling era andato dritto all'unica domanda che veramente interessava la commissione. Ho ascoltato i miei colleghi quando consideravano impropria questa domanda, ma essendo ospite di questo paese, non volendo entrare in discussioni di tipo legale, risponderò nel modo più completo possibile. Non sono mai stato e non sono ora membro di nessun partito comunista. Ah, la risposta è dunque di non essere mai stato membro del Partito Comunista. Esattamente, Presidente. Non era membro del Partito Comunista in Germania? No, non lo ero. Signor Brecht, ma è vero che lei ha scritto un notevole numero di drammi, poesie ed altri scritti che erano molto rivoluzionari. Ho scritto un gran numero di poesie, canzoni e drammi durante la lotta contro Hitler e naturalmente essi possono essere considerati perciò rivoluzionari, perché io naturalmente ero favorevole al rovesciamento di quella forma di governo. Brecht, come si evince dal testo della sua dichiarazione che abbiamo sentito all'inizio, ma che non fu mai messa agli atti dal presidente della commissione Thomas, intendeva sottolineare la somiglianza delle attività della commissione con quelle delle prime polizie politiche naziste. Il destro per tale parallelo gli fu fornito dallo stesso investigatore Stripling, che dette così un'ennesima dimostrazione della poca avvedutezza nel porre le domande. Poiché la commissione aveva tutto da perdere da simili paragoni, il presidente Thomas accorse in aiuto del suo collaboratore dicendo che alla commissione non interessavano i lavori che possono essere stati scritti per sostenere il rovesciamento del governo e della Germania o di un altro paese. Signor Stripling, non ci interessano i lavori che possono essere stati scritti per sostenere il rovesciamento del governo della Germania o di un altro paese. Sì, capisco, Presidente. Ma da un esame dei lavori che il signor Brecht ha scritto, specialmente quelli in collaborazione con Hans Eisler, mi pare che egli sia una persona di importanza internazionale per quel che concerne il movimento rivoluzionario comunista. Ora, signor Brecht, è vero che lei ha scritto degli articoli che sono apparsi in pubblicazioni nella zona sovietica della Germania nei mesi scorsi? Io non ricordo di aver scritto questi articoli. Non ne ho visto poi nessuno pubblicato, non ho scritto articoli di questo tipo in questo periodo. Io scrivo pochissimi articoli, se mai ne scrivo. Ho qui, signor Presidente, un documento. Signor Brecht, può identificarlo? Sì. Ma non è un articolo. No, ma una scena tratta da un dramma da me scritto nel 1937-38 in Danimarca. Il dramma si chiama Terrore e miseria del Terzo Reich, e questa scena tratta di una donna ebrea a Berlino nel 1936-1937. È stata pubblicata, a quanto vedo, sulla rivista Ost und West nel luglio del 1946. Signor Brecht, conosce l'uomo che è il curatore di questa rivista? Sì, lo conobbi a Berlino, lo incontrai di nuovo a New York. Sa che è membro del Partito Comunista in Germania? Beh, quando lo incontrai in Germania era un giornalista della Ullstein Press, che non era un giornale comunista, perché non c'erano giornali comunisti, per cui non so con certezza se fosse membro del Partito Comunista. E lei non sa se era membro del Partito Comunista? Non lo so! Nel 1930 lei ha scritto un dramma, assieme ad Hans Eisler, intitolato La linea di condotta. Sì. Sin dal titolo dell'opera, la commissione intendeva proporre a Brecht una traduzione inglese forzata che potesse formare una prova del suo tentativo di indottrinamento del popolo americano. Ma il commediografo corresse parola per parola tutto quello che gli veniva imputato dalla lettura di parte del dramma. Vorrebbe spiegare alla commissione il tema di questo dramma? Di che cosa si tratta? Cercherò. Prima di tutto spieghi cosa significa il titolo. Beh, significa misure da prendere o passi da compiere. Misure, meglio misure. Potrebbero essere misure disciplinari. No, non misure disciplinari. Significa misure da prendere. Va bene. Ora dica alla commissione di che cosa tratta il dramma. Beh, questo è un dramma, è un adattamento di un antico dramma religioso giapponese chiamato Dramma No. E segue abbastanza da vicino queste storie antiche che mostrano la devozione a un ideale fino alla morte. A quale ideale, signor Brecht? L'ideale dell'antico dramma era religioso. Questi giovani... Non aveva a che vedere col Partito Comunista? Sì. E con la disciplina all'interno del Partito Comunista? Sì, è un dramma nuovo, un adattamento. Ha come sfondo Russia e Cina degli anni 1918-1919. Alcuni agitatori comunisti si recarono in una specie di terra di nessuno tra la Russia e la Cina, che allora non era uno Stato, non aveva anche un reale... Signor Brecht, permetta che la interrompa. Considererebbe il dramma come un lavoro filo o anticomunista? O secondo lei che assume una posizione neutrale a proposito del comunismo? No. Io direi, vedete, la letteratura ha il diritto, ha il dovere di diffondere presso il pubblico le idee dell'epoca. Ora, in questo dramma, io ho scritto anche altri 20 drammi, ma in questo cercavo di esprimere i sentimenti e le idee degli operai tedeschi che combattevano Hitler. Ho anche formulato in modo artistico... Detto, combattevano contro Hitler? Sì! Scritto nel 1930? Oh sì! Quella lotta cominciò nel 1923, presidente! Lei ha detto che si trattava della Cina, però. Non aveva nulla a che vedere con la Germania. No, nulla a che vedere, no. Nel corso del dramma si fa riferimento alle teorie di Lenin, all'ABC del comunismo e ad altri classici comunisti e alle attività del Partito Comunista Cinese in generale. Ora, signor Brecht, vorrebbe dire alla commissione se uno dei personaggi del dramma viene ucciso o meno da un compagno nel migliore interesse del Partito Comunista? No, non è così, secondo la vicenda no. Perché non si inclina alla disciplina, per questo viene ucciso dai suoi compagni, non è vero? No, non è così, non è proprio così. Mi scusi, se lo leggete attentamente scoprirete che, come nell'antico dramma giapponese, vi sono in gioco altre idee. Questo giovane che muore è convinto di aver recato danno alla missione in cui credeva ed era d'accordo ed era pronto a morire per non aumentare quel danno. Per questo chiede ai suoi compagni di aiutarlo. E tutti lo aiutano a morire. Egli salta nell'abisso ed essi lo accompagnano, come dire, teneramente a quell'abisso. E questa è la vicenda. Dalle sue osservazioni deduco che egli non fu semplicemente ucciso. Egli fu assassinato. Egli desiderava morire. Ma è per questo, quindi... che gli altri lo hanno ucciso? Ma no, non l'hanno ucciso, non è nella vicenda. Egli si è ucciso. Gli altri l'hanno aiutato. Ma naturalmente gli avevano detto che era meglio se scompariva. Meglio per loro, meglio per lui e per la causa in cui egli credeva. Non riuscendo, Stripling, a dimostrare l'alto valore sovversivo della commedia brechtiana, cambia argomento. Signor Brecht, potrebbe dire alla commissione quante volte si è recato a Mosca? Sì, sono stato invitato a Mosca 2 volte. E chi l'ha invitato? La prima volta fui invitato dalla organizzazione Fox per gli scambi culturali. Fui invitato per presentare un film, un documentario che avevo aiutato a realizzare a Berlino. Come si intitolava? Il titolo è il nome di un sobborgo di Berlino, Hulevampe. Mentre si trovava a Mosca, incontrò Sergei Tretiakov. Sì, drammaturgo russo. Uno scrittore? Sì, ha tradotto alcune delle mie poesie. Credo anche un mio dramma. Signor Presidente, il numero 5 di International Literature del 1937, pubblicato dall'editrice di Stato per la letteratura di Mosca, reca un articolo di Sergei Tretiakov, importante scrittore sovietico, con un'intervista al signor Brecht. A pagina 60 afferma... Prego. Sì. Io sono stato uno dei membri del Comitato Rivoluzionario di Augsburg, proseguì Brecht. Non lontano a Berlino, Levin innalzava la bandiera del potere sovietico. Augsburg viene dalla luce riflessa di Monaco. L'ospedale era l'unica unità militare della città. Mi eressero nel Comitato Rivoluzionario, ricordo ancora Georg Brehm e il bolscevico polacco Olszewski. Non vantammo un solo ufficiale della Guardia Rossa. Non avemmo il tempo di pubblicare un solo proclama o di nazionalizzare una sola banca o di chiudere una chiesa. In due giorni le truppe del generale Franz von Epp entrarono ad Augsburg nella loro marcia su Monaco e uno dei membri del Comitato Rivoluzionario si nascose a casa mia fino a che non riuscimmo a fuggire. Quando visitò Mosca nel 1932, Brecht mi disse che aveva un piano per la realizzazione di un teatro a Berlino in cui si sarebbero rivissuti i più importanti processi della storia dell'umanità. Brecht pensò di scrivere un dramma sui trucchi terroristici escogitati dai proprietari terrieri allo scopo di stabilizzare i prezzi dei cereali, ma ciò richiedeva la conoscenza dell'economia. Lo studio dell'economia, infatti, ha portato Brecht a Marx e a Lenin. I suoi lavori sono diventati una parte preziosa della sua biblioteca. Brecht studia e cita Lenin in quanto grande pensatore, grande maestro di prosa. Il dramma tradizionale ritrae la lotta degli istinti della classe. Brecht vuole che la lotta degli istinti della classe venga sostituita dalla lotta della coscienza sociale, delle convinzioni sociali. Egli ritiene che la situazione non vada soltanto sentita, ma anche spiegata, cristallizzata nell'idea che rovescerà il mondo. Ricorda questa intervista, signor Brecht? No. Deve essere stata scritta 20 anni fa circa. Le mostrerò la rivista. Va bene. Non ricordo che ci fosse stata un'intervista. Non lo ricordo affatto. Signor Stripling, non ricordo con esattezza questa intervista. Io credo che sia più o meno, sì, una specie di riassunto giornalistico di discussioni su molti argomenti. Sì. E quanti dei suoi lavori sono basati sulla filosofia di Marx e Lenin? No, non credo che ciò sia veramente corretto, Ma naturalmente io ho studiato. Ho dovuto studiare, come ogni scrittore che intenda scrivere drammi storici, l'idea di Marx sulla storia. Non credo che al giorno d'oggi si possano scrivere drammi intelligenti senza questi studi. Inoltre, la storia scritta ora è profondamente influenzata dagli studi di Marx sulla storia. Signor Brecht, da che lei è qui negli Stati Uniti, ha mai frequentato riunioni del Partito Comunista? No, non credo. Non crede? No. Non è sicuro? No, sono sicuro. È sicuro, signor Brecht, di non avere mai preso parte a riunioni del Partito Comunista? Credo di sì, sono qui da 6 anni. Non credo di avere partecipato a riunioni politiche. Ah, le riunioni politiche non c'entrano. Ha preso parte a riunioni del Partito Comunista degli Stati Uniti? Ancora una volta, Brecht aveva messo in ridicolo il suo inquisitore, costringendolo a definire le riunioni del Partito Comunista forse l'organizzazione più rigorosamente politica e ideologicizzata d'America come riunioni non politiche. Non credo. Ne è certo? Io credo di esserne certo. Lei crede di esserne certo? Sì, non ho partecipato a queste riunioni, secondo me. Signor Brecht, da quando si trova negli Stati Uniti ha mai incontrato rappresentanti del governo sovietico? Oh, sì, certo, a Hollywood sono stato invitato a volte, 3 o 4 volte in tutto, al consolato sovietico assieme ad altri scrittori, naturalmente. Quali altri? Ma altri scrittori, artisti, attori, si davano delle feste per speciali festività sovietiche. E alcune di queste autorità sovietiche sono mai venute in visita da lei? Non mi pare. Grigory Keifetz non è venuto da lei il 14 aprile 1943? Il vice console sovietico, lei conosce Grigory Keifetz, vero? Grigory Keifetz? Faccia molta attenzione a questa domanda, eh. Non ricordo questo nome, potrei conoscerlo, ma non ricordo. È venuto da lei il 14 aprile 1943. Beh, potrebbe essere. E di nuovo il 27 aprile e il 16 giugno del 1944. Può anche essere che qualcuno, non ricordo il nome, ma qualcuno degli addetti culturali. Addetti culturali? Sì, sì. Ricorda il signor Keifetz? Non ricordo questo nome, ma potrebbe darsi. Ma ricordo che, sì, penso forse, il consolato. Sì, dal consolato russo venne qualcuno, ma non ricordo neppure il suo nome. E per quale motivo vennero? Ma deve essere stato a riguardo dei miei contatti letterari con scrittori tedeschi. Alcuni tra loro sono miei amici. Scrittori tedeschi? Sì, a Mosca. A Mosca? Sì, sì. Per questo l'editrice di Stato ha pubblicato la traduzione dei miei drammi a cura di quel Tretiakov, no? Per esempio Terrore e miseria del Terzo Reich, Opera da tre soldi, poesie e varia. Gerhard Eisler, è mai venuto a trovarla? Gerhard, non Hans. Sì, io ho conosciuto anche Gerhard Eisler. È il fratello di Hans ed è venuto a trovarmi insieme a suo fratello 3 o 4 volte anche senza di lui. Può dirci in che anno? Non fu nello stesso anno in cui Keifetz venne da lei? Non lo so. Signor Presidente, non ci vedo nessuna relazione. Ricorda che egli sia venuto da lei il 17 gennaio 1944? No, non ricordo questa data, ma potrebbe anche essere... E dove è venuto a trovarla? Ma di solito veniva a cercare suo fratello, che come vi ho detto è un mio vecchio amico. Giocavamo anche a scacchi, o parlavamo di politica. Di politica? Oh sì. E qual è stata? Qual è stata l'ultima risposta? Non ho sentito. È ben comprensibile il sobbalzo di attenzione da parte del presidente Thomas, perché finalmente il testimone sembrava avere ammesso una sua qualche implicazione con Eisler, col quale parlava di politica. Ah, era un nuovo tranello del drammaturgo, nel quale stavolta era caduto anche l'onorevole Thomas. I due discettavano di cose tedesche, non statunitensi. Parlavano di politica. In qualcuna di queste conversazioni con Eisler ha mai discusso sul movimento comunista tedesco? Sì. In Germania? Sì, parlavamo di questioni politiche tedesche. Eisler è uno specialista di queste cose, è un uomo politico. Ah, è un uomo politico. Oh sì, sapeva molto più di me sulla situazione in Germania. Signor Brecht, quando lei è entrato nel nostro paese, ha fatto nessuna dichiarazione all'ufficio immigrazione circa le sue passate affiliazioni? Ma io non ricordo di aver fatto una simile dichiarazione, ma ho fatto la solita dichiarazione di routine che non intendevo rovesciare il governo degli Stati Uniti. Può essermi stato chiesto se appartenessi al Partito Comunista, non ricordo se mi è stato chiesto, non mi ricordo, ma in tal caso avrei risposto ciò che ho detto anche a voi. E cioè che non ero iscritto. Le chiesero se era stato membro del Partito Comunista o no? Non ricordo. Le chiesero se era mai stato in Unione Sovietica? Sì, mi pare, glielo dissi. Le rivolsero domande relative ai suoi scritti? No, a quanto mi ricordo no. Non ricordo alcuna discussione letteraria. Lei ha detto di aver venduto il libro o il soggetto di Anche i boia muoiono alla United Artists, vero? Sì, sì, a una ditta indipendente. La colonna sonora è stata scritta da Hans Eisler? Sì. E ricorda chi compariva nel film? No, non ricordo. Non ricorda neppure chi interpretava il ruolo principale? Bah, mi pare fosse Brian Dunlap. E non ricorda altri interpreti? No, non ricordo. Vedete, non ho avuto molto a che fare con le riprese del film. Scrissi il soggetto e poi diedi alcuni consigli agli sceneggiatori sull'ambiente del nazismo a Praga. Cosicché non ebbi nulla a che fare con gli attori. Signor Stripling, potrebbe affrettarsi? Abbiamo molto da fare questo pomeriggio. Allora, il presidente Thomas invitò il signor Stripling ad affrettarsi, perché si era reso conto che l'interrogatorio si stava trasformando in un'azione controproducente per la commissione. Presidente, chiedo un momento di interruzione. Accordo. The story of Ethan Mama, while director Marx and Lane, whose works became an indispensable part of his library. Brecht studies and quotes Lenin as a great thinker and as a great master of prose. According to Brecht, the theater should act upon the spectator's intellect, a traditional drama that pays the struggle of class instinct. Brecht demands that the struggle of class instinct be replaced with the struggle of social consciousness, of social conviction. He maintains that the situation must not only be felt, but explained, crystallized into the idea which would overturn the world. Brecht, the artist, has an extremely broad and varied range. He has composed many ballads, songs, and choruses on the subject of revolutionary ruthlessness. His bookshelf, however, contains books of science and action and Lenin. Do you recall that interview, Mr. Brecht? No. Must have been written 20 years ago or so. Da quando è negli Stati Uniti? Ha pubblicato articoli sulla stampa comunista americana? Non credo. Conosce la rivista New Messes? No. Non ne ha mai sentito parlare? Oh sì, naturalmente. E ha mai pubblicato qualcosa su quella rivista? Ma questo proprio non lo so. Potrebbero avere pubblicato la traduzione di qualcuna delle mie poesie, ma io non ho mai avuto un diretto contatto con loro, non gli ho mai mandato qualcosa. E ha collaborato con Hans Eisler per la canzone Lode dell'imparare? Sì, ho collaborato, ho scritto le parole, Eisler la musica. Ma vorrebbe recitare le parole di questa canzone alla commissione, per cortesia? Oh, va bene, non so se sono in grado. Posso sottolineare che la canzone deriva da un mio adattamento di un dramma di Gorky. Conosce Gorky? Ecco, l'autore della Madre. In questa canzone un'operaia russa si rivolge alla povera gente. È stata presentata nel nostro paese, mi pare. Sì, nel 1935 a New York. Ora le leggerò le parole e mi dirà se è quella. Prego. Impara ora la semplicità della verità. Tu, per il quale finalmente il tempo è venuto. Non è troppo tardi. Impara ora la bici. Non è abbastanza, ma almeno imparalo. Non temere, non lasciarti andare. Comincia. Devi imparare la lezione, devi essere pronto a prendere il potere. No, mi scusi, ma questa traduzione è sbagliata, Non va bene, non va bene. Solo un secondo, le darò poi il testo esatto, mi scusi. Era proprio questa l'ultima carta di Stripling. Proporre agli atti una traduzione libera, o faremo meglio a dire forzata, nella speranza di poter addebitare a Brecht qualche cosa. Ma l'artista non perse la calma. Non è la corretta traduzione. No, non è corretta. Non è quello il senso. Non è di questo che sto parlando, no. Cosa significa? Ho qui una parte di The People, pubblicato dal Partito Comunista degli Stati Uniti. A pagina 24 dice: Lode dell'imparare, di Bertolt Brecht. Musica di Hans Eisler. Prego. Devi essere pronto a prendere il potere. Uomini che ricevete il sussidio di disoccupazione, imparatelo. Uomini in prigione, imparatelo. Donne delle cucine, imparatelo. Uomini di 65 anni, imparatelo. Dovete essere pronti a prendere il potere. La traduzione corretta, Presidente, sarebbe dovete prendere la guida. Dice senza dubbio così, non è dovete prendere il potere. La traduzione non è letterale. Bene, signor Brecht. Dato che è stata stampata su pubblicazione del Partito Comunista, se non è corretta, cosa si intende? Non ricordo di avere mai, non ho mai ricevuto questo libro, probabilmente non ero presente quando uscì. Credo che sia stata pubblicata come canzone, una delle canzoni di cui Eisler aveva scritto la musica. Non penso di avere mai visto la traduzione. Ha le parole di fronte a sé? Sì, in tedesco. Prosegue. Devi essere pronto a prendere il potere. Non esitare a comandare, compagni. No, questi tre versi devono essere tradotti molto più correttamente. Devi prendere la guida. Non devi prendere il potere. Devi prendere la guida. È la traduzione più corretta, la più accurata, Presidente. Vabbè, ha mai presentato domanda per essere ammesso al Partito Comunista? No, no, no, mai. Signor Presidente, io ho qui delle carte. Io sono sempre stato uno scrittore indipendente e ho sempre voluto essere uno scrittore indipendente e sottolineo che, anche teoricamente, era la cosa migliore per me non essere iscritto a qualsivoglia partito. E tutte queste cose che sono state lette qui non sono state scritte solamente per i comunisti tedeschi, ma sono state scritte per tutti i lavoratori. Operai socialdemocratici sono intervenuti a questi spettacoli e così hanno fatto anche lavoratori cattolici, appartenenti a sindacati cattolici. Così hanno fatto lavoratori che non si erano mai iscritti a un partito o che non volevano entrare in un partito. Signor Brecht, Gerhard Eisler le ha mai chiesto di entrare nel partito? No, no! E Hans Eisler le ha mai chiesto di entrare nel Partito Comunista? Non l'ha fatto, no! Io credo che mi si consideri semplicemente uno scrittore che vuole scrivere delle cose come lui le vede e non una figura politica. E non ricorda che nessuno le abbia mai chiesto di iscriversi al Partito Comunista? Alcuni possono avermelo suggerito, ma poi ho scoperto che non era una cosa per me. Ma chi è che le chiese di entrare nel Partito Comunista? Lettori. Chi? Dico lettori delle mie poesie, persone tra il pubblico, lei capisce, non c'è mai stato un approccio, come dire, ufficiale affinché pubblicassi. Signor Brecht, alcune persone le hanno comunque chiesto di entrare nel Partito Comunista. Intende in Germania? No, intendo negli Stati Uniti. No, no, no. Lei non ricorda se qualcuno qui negli Stati Uniti le ha mai chiesto di iscriversi al Partito Comunista? Non ricordo. Vorrei chiedere al signor Brecht se egli ha o meno scritto la poesia Avanti non abbiamo dimenticato. Non me la ricordo, deve essere per via del titolo in inglese. Vorrebbe tradurlo dal tedesco? Ora sì, sì, capisco, sì, ho capito, sì. Si ricorda le parole? Oh, sì, sì, sì, sì. Prego. Avanti. Non abbiamo dimenticato la nostra forza nelle lotte che abbiamo vinto. Non importa ciò che incombe, avanti! Indimenticati siamo forti come uno solo. Solo queste nostre mani ora agiscono, costruiscono la strada, i muri, le torri. Tutto il mondo è nostra opera. Che cosa adesso possiamo dire nostro? Avanti! Marciate verso la torre, attraverso la città, attraverso la terra, il mondo, avanti! Avanzate! Di chi è la città? Di chi è il mondo? Avanti! Non abbiamo dimenticato la nostra unione nella fame e nel dolore. Non importa ciò che incombe, avanti! Non abbiamo dimenticato. Abbiamo un mondo da conquistare. Dobbiamo liberare il mondo dall'ombra. Ogni negozio, ogni stanza, ogni strada, ogni prato, tutto il mondo ci apparterrà. Signor Brecht, ha scritto lei queste cose? Io ho scritto una poesia in tedesco. Ma è una cosa molto, molto diversa. Questo è tutto, signori. Molte grazie, signor Brecht. Grazie a lei, signor Stribli. Evidentemente,

Ben trovati a voi, grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Ci racconti di questa trasposizione? La scoperta dell'America, sono 50 sonetti, quindi parliamo di poesia, che noi abbiamo teatralizzato e riscritto per il teatro, ma senza cambiare una virgola dal poema di Pascarella. E questo poema è l'opera più importante, anche più conosciuta di Pascarella, una prodigiosa invenzione comica della fantasia, riscrive quella che è la più grande rivoluzione della scoperta dell'età moderna, cioè la scoperta dell'America. Cioè, questa scoperta è raccontata in un'osteria romana dove Cesare, questo popolano avventore, racconta con il ritmo e l'euforia che dà il vino e anche con le sue note malinconiche appunto le avventure di Cristoforo Colombo in modo molto pittoresco, nel senso che partiamo proprio da un grottesco, no? Praticamente Colombo va dal re e dice: io avrebbe l'intenzione di scoprire l'America. Quindi, diciamo, lui già sapeva di andare a scoprire l'America, secondo chiaramente la ricostruzione del nostro caro Cesare, ma non di andare in India come invece, insomma, quindi la verità storica viene capovolta praticamente. Questo racconto, dove appunto ci sono tutti gli ingredienti un po' della favola, cioè il buono che è Colombo, i cattivi che sono il re e i suoi ministri, l'avventura sui mari, le misteriose ed esotiche terre lontane. Abbiamo aggiunto a quest'opera di Pascarella la musica, perché siamo in un'osteria e l'osteria, come sappiamo tutti, era il luogo dell'ospitalità, no? Luoghi di incontro, di ritrovo, di socializzazione, e dove l'attore protagonista era uno solo fondamentalmente, che era il vino. Per cui questo il vino, questo elemento che ci mette in contatto appunto con la divinità, e per cui il luogo dell'osteria era il luogo dove ci si incontrava, dove si raccontavano i fatti della città, del mondo, era un po' il giornale quotidiano, diciamo, la storia dei fatti presenti, di quelli veri ma anche di quelli inventati. L'osteria era un gran teatro dove si raccontavano delle storie, e la storia che andiamo a raccontarvi appunto nel cuore di Testaccio, di Teatro Vittoria, insomma, quindi diciamo anche il luogo più giusto per raccontare, crediamo, questa storia, e appunto in questa ricostruzione di questa osteria, di questa fraschetta, no? questi luoghi che ormai veramente a Roma non so se ci sono ancora, forse i castelli mettiamo sulle dita di una mano. Per cui siamo in un mondo, diciamo, forse che non c'è più quasi, però molto vicino ai nostri ricordi, e che ricordiamo con affetto di una Roma che forse non c'è più, però insomma che ci piace ricordare la tradizione, insomma, che le musiche che abbiamo messo nello spettacolo sono musiche della tradizione romana e alcuni pezzi invece scritti da Pino Cangialosi appunto per lo spettacolo. E comunque è un testo che mantiene sempre una sua freschezza, e il teatro, in particolare quello romano, ogni tanto lo riporta in scena. Quali sono secondo te le ragioni di questa sempre moderna essenza di questo lavoro di Pascarella? Credo fondamentalmente semplicemente che è un'opera riuscita, cioè nel senso che proprio la qualità anche del verso, delle rime, è un'altissima qualità anche rispetto proprio alle altre sue opere, e anche l'idea di partenza, insomma, come dicevo prima, di questo capovolgimento, no, della verità storica, è un'idea che è fondante di questo lavoro, che è sicuramente un'idea riuscita, insomma, un'idea vincente, e appunto oltre alla qualità dei versi, 50 sonetti che poi diciamo siamo abituati a pensare che il romano sia una lingua greve, che sia una lingua pesante, in realtà non è così, Pascarella ce lo dimostra, insomma, la gentilezza della sua penna è notevole, e quello che ascolterete, proprio perché questo che ci restituisce la poesia, è proprio la leggerezza di questo romanesco gentile, tanto è vero che insomma Pascarella era definito il più inglese dei poeti romani, proprio per connotarlo appunto con questa sua lingua leggera, insomma siamo a fine 800, per cui insomma già c'è stata l'Unità d'Italia, a differenza del Delli che invece era veramente un'altra lingua, era un romano insomma più, diciamo, un'altra, era proprio una lingua diversa. Poi insomma con l'arrivo dei piemontesi insomma si è, il romano, il dialetto si è un po' annacquato, per cui è un romano comprensibilissimo ed è anche, diciamo, ha il merito questo linguaggio di Pascarella anche un po' di varcare quelli che sono i confini della poesia dialettale, insomma. È un lavoro italiano, diciamo, parlato in romanesco, così vogliamo trovare un altro paradosso. Senti, questa vostra rilettura ha avuto un prima e avrà un dopo? Quando si mette in scena un lavoro si spera sempre che ci sia un dopo, speriamo che questa offerta venga accolta anche se in un mese non propriamente teatrale come quello di maggio, anche se sembra che il caldo tardi a venire, insomma questo qua magari può farci comodo, insomma egoisticamente per quanti attendono il bel tempo. Però ecco, passare una serata insieme a Pascarella e ai selvaggi che Colombo trova in questa sua in America inventata, sarà sicuramente una serata molto divertente, un intrattenimento ma intelligente. E allora ricordiamo lo spettacolo La scoperta dell'America di Cesare Pascarella a Roma al Teatro Vittoria del 21 al 26 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'adattatore, regista, attore Stefano Messina. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie. Con Francesco Perrone, uno dei curatori della sesta edizione del Festival In Box dal vivo a Siena dal 20 al 25 maggio 2019. Francesco, ben trovato. Grazie mille a tutti gli ascoltatori. Raccontiamo cos'è In Box. È un'idea, l'idea di sostenere gli artisti emergenti, in particolare quelli che fanno teatro, tramite un sostegno concreto, ovvero il lavoro e la dignità economica del lavoro svolto. In Box è una rete, una serie di teatri, siamo quasi 70, che si sono messi insieme in una decina di anni, con l'obiettivo appunto di andare a selezionare e promuovere spettacoli e compagnie emergenti tramite dei bandi, facendo che cosa? Dando loro la possibilità di circuitare, ovvero di portare il loro lavoro, le loro opere nei teatri che fanno parte della rete e quindi incontrare il pubblico, che può sembrare un'idea anche banale, scontata, nel senso che questo è quello che le compagnie teatrali dovrebbero fare, purtroppo però è anche uno dei punti più critici e dolenti del comparto teatrale italiano, perché tante compagnie, specialmente quelle emergenti, quindi diciamo quelle che hanno una dimensione professionale, fanno un lavoro di qualità ma non hanno ancora ottenuto il riconoscimento, la visibilità che meriterebbero, si trovano in questo limbo per cui riescono magari a produrre i loro lavori, diventa molto più difficile riuscire a farli girare, ovvero andare in teatri e andare in teatri venendo pagati, quindi vedendo riconosciuta la dignità economica del lavoro svolto. Questo è quello che cerca di fare In Box in sostanza, quindi mette in palio delle repliche pagate, quindi con un compenso, due cose basilari che però molto spesso sono anche quelle più ambite, perché spesso mancano insomma chi cerca di fare di questa arte anche il proprio mestiere. Come sarà articolato il festival? È la fase finale di selezione degli spettacoli che partecipano a In Box e a In Box Verde. Che cos'è In Box Verde? È la sezione del progetto dedicata al teatro ragazzi per bambini e famiglie. Quindi 12 spettacoli in tutto, 6 per In Box e 6 per In Box Verde, vengono ospitati a Siena e mettono in scena i loro spettacoli davanti a chi? Davanti ai giurati, ovvero ai componenti delle due reti, In Box e In Box Verde, davanti a altri operatori, davanti alla stampa, alla critica di settore, ma è anche un festival aperto alla città, quindi gli spettacoli sono aperti al pubblico, sia quelli per grandi che quelli per bambini, quelli di In Box Verde, ai quali assistono, oltre alla giuria, alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Siena. Sono partiti quest'anno che erano circa 400, poi durante i due mesi più o meno dura il lavoro di selezione via via, attraverso vari passaggi di scrematura, siamo arrivati a questa rosa ristretta, 6 in box verde, 6 in box. E che cosa succede in quei 2 giorni e mezzo per ciascuna delle 2 sezioni? I 6 finalisti vanno in scena, la giuria li guarda e al termine delle esibizioni ciascun giurato in maniera autonoma sceglierà quale spettacolo si porterà a casa, o meglio nel suo teatro, programmandolo e acquistandolo, cosa che ogni partner è tenuto a fare, è messa per scritto nel bando e lo spettacolo che al termine delle esibizioni, al termine della distribuzione delle repliche, si aggiudica il maggior numero di repliche, è lo spettacolo che diventa il vincitore di quell'edizione di Inbox. Per quanto riguarda Siena, sono 3 i teatri coinvolti nel festival. Sì, esatto, siamo molto contenti. Questa su Siena è la 4ª edizione, sono 6 le edizioni di Inbox dal vivo, le prime 2 le abbiamo fatte una a Firenze e una alla Spezia, poi da 4 anni siamo a Siena. Non è un caso, Siena è la casa di Stradivut Teatro, che io rappresento in questo momento, e Stradivut Teatro è il soggetto che ha ideato Inbox, che è capofila di questa rete nazionale. Siamo senesi e quindi siamo riusciti ormai, appunto, 4 anni fa, anche con il sostegno del comune di Siena, che continua a sostenerci, a portare tutto a casa. E quindi saremo al Teatro dei Rozzi, al Teatro del Costone e da quest'anno anche al Teatro dei Rinnovati, al teatro principale della città, e gli spettacoli andranno in scena in tutti e 3 questi teatri. E quindi è davvero, anche in questo caso, siamo molto contenti, perché significa coinvolgere tutta la parte teatrale e culturale della città, ed è bello che vadano in scena in questi contesti, che forse non sono tanto abituati a vedere questo tipo di proposte, per l'appunto spettacoli di artisti e compagnie emergenti che per Inbox non significa necessariamente essere giovani. Non si sa bene, poi, tra l'altro, quando si smette di essere giovani in Italia, è una concezione un po' labile, diciamo. Quindi l'emergenza, per come la intende Inbox, non è un under o un over, una data età, ma è appunto una grande qualità del lavoro a cui non corrisponde l'adeguata visibilità presso gli operatori di settore, presso la critica e presso il pubblico. E quindi questo è il tentativo e l'esperimento che cerca di fare Inbox: fare talent scouting, andare a trovare talenti e portarli a quanto più pubblico possibile, a cominciare da Siena e da Inbox dal vivo. Mi dicevi di 70 strutture a livello nazionale, è una rete in espansione? È una rete che ogni anno cerca di crescere, chiaramente, perché questo significa avere più repliche da mettere in palio, quindi dare più opportunità di lavoro agli artisti. Chiaramente non cerchiamo di farlo anche noi in maniera indiscriminata, quindi prendendo sempre comunque chiunque, ma cercando di arricchire la rete man mano che entrano nuovi partner e nuovi teatri. Quindi è una cosa che mi piace dire, che tra l'altro c'è una grande varietà e una grande trasversalità di identità nei soggetti che compongono la rete, e penso sia una delle ricchezze e delle chiavi del successo, che è il piccolo successo di Inbox, perché allo stesso tavolo, con lo stesso diritto di parola e di voto, sia a livello progettuale che di giuria, siedono dal circuito regionale al festival, al teatro comunale, al piccolo spazio off, e tutti insieme sviluppano un lavoro e un pensiero legato ai linguaggi del contemporaneo. E insomma, non so se ce ne sono tantissime di esperimenti del genere in Italia. Sicuramente Inbox è stato uno dei primi a cercare di farlo. In chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per le informazioni? Certamente, allora direi che quella principale, la casa madre, è il sito di Inbox, che è www.inboxproject.it. Da lì si riesce a trovare tutte le informazioni sugli spettacoli, sulle compagnie, gli orari, prenotazioni. Tra l'altro c'è tutta una sezione dedicata agli accrediti, quindi per gli operatori che fossero artisti o altri operatori che fossero interessati a venire, cioè abbiamo delle convenzioni attive, quindi ci sono informazioni anche su questo. E poi i social: noi abbiamo sia la pagina Facebook di Stradivut, sia la pagina Facebook di Inbox, che funzionano invece un po' da diario di bordo e vengono aggiornate costantemente, e tramite quel ci si può stare

Fauno per il Vascello, questa prima nazionale, poi che succederà dopo il 28? Poi niente, saremo il 28 al Vascello, poi l'11 maggio al Teatro Vascello, poi il 26 maggio al Teatro Vascello, tre fine settimana. E nulla, per adesso siamo al Vascello, perché poi lo spettacolo è pronto da relativamente poco, diciamo, è pronto da poco. E quindi non ci siamo attrezzati ancora per partecipare alle stagioni, ma per un senso di rispetto verso i teatri, cioè io propongo uno spettacolo nel momento in cui il spettacolo è quasi, non dico è automatico, nel suo dispiegarsi, ma è quasi automatico. Quindi Fauno è quasi automatico adesso, però non lo era quando le stagioni sono state messe a punto, parliamo di febbraio-marzo, fine febbraio, fine marzo, quel periodo in cui fanno le stagioni, per cui faremo qualche, sicuramente qualche programma a Napoli, insomma, e spero che i teatri non abbiano paura di prendere atto del grande affronto che rappresentiamo, retorica. In chiusura, Nicola, ci lasci i riferimenti web per tutte le informazioni? Sì, come no, www.facebook.com/Nicola Vicidomini, attaccato, è la mia pagina, gestisco anche io fan, lo chiamano. Sto pure io a sto sfacciato barbarie generale, ma io non sono immune da sta cosa, purtroppo siamo spacciati, e quindi poi su Instagram baracca Vicidomini, baracca /sotto-basso Vicidomini, su Twitter che non uso mai, però volete mandarci anche lì, benvenga, è N grande Vicidomini, questo è, e per il resto stiamo attrezzando, insomma, speriamo. Allora, ricordiamo il primo appuntamento con lo spettacolo Fauno al Teatro Vascello a Roma, domenica 28 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Nicola Vicidomini. A te una cosa importantissima, anzi due cose importantissime. Musiche originali, sono originali perché inedite, assolutamente inedite, dal 74, arrivano in uno scaffale impolverato, casa Umiliani, sono del maestro Umiliani. Mi ha dato a distanza nel realizzare quest'opera, e a distanza perché è morto fondamentalmente nel 2001, e nonostante sia morto lui continua a comporre per il teatro, quindi tu pensa che abbiamo sconfitto la morte con questo spettacolo, quindi pensa il valore possa avere, o la mancanza assoluta di valore, il valore non c'è, sì. Sì, e le maschere sono di Dem, di grandi artisti milanesi. Un abbraccio, ciao. Il comico Nicola Vicidomini sul suo spettacolo Fauno a Roma, Teatro Vascello, domenica 26 maggio 2019. Con Lorenzo Terranera, uno dei curatori della festa Bertani Dai, a Roma, via Agostino Bertani, domenica 26 maggio 2019. Lorenzo, ben trovato. Ciao a tutti. Per chi non conoscesse, raccontiamo cos'è Bertani Dai. Siamo alla 16ª edizione, ok. La festa è nata appunto 16 anni fa, così c'era un po' l'esigenza di aprire gli spazi, gli studi, far conoscere un po' di realtà della mia. E così abbiamo pensato, facciamo una festa, dopodiché ci ho preso un pochettino la mano, c'è stato bisogno del patrocinio, poi c'è stato bisogno di una strada, cioè c'è stato bisogno insomma di spazio. E quindi negli anni la festa è cresciuta tantissimo, sono due giorni, cioè la festa vera e propria dura un giorno, io dico due giorni perché c'è il prima, cioè il sabato, che c'è proprio la costruzione, tutti insieme, quindi si costruisce il palco, i giochi, si mette su insomma tutta la scenografia. E la festa è, a parte insomma voglio dire, le classiche cose, quindi la musica, ci sono laboratori, ci sono mostre, incontri, e tutto viene animato, autogestito dagli abitanti della strada. Quindi diciamo la parte più grossa è quella gestita dall'associazione B5, dalla scuola di illustrazione Officina B5, poi ogni anno si aggiungono No, in realtà abbiamo il Cinema America, c'è il locale che sta lì, quest'anno si aggiungono i tatuatori che si sono presi uno spazio sulla strada, quindi faranno tatuaggi dei bambini. Strada. Il tema quest'anno è spazio, quindi tutto quello che può riguardare il cosmo, l'universo, ma anche lo spazio inteso come lo spazio che occupiamo, lo spazio vitale, lo spazio per un'opera, lo spazio per un pensiero, insomma la parola spazio. Leggo che l'orario è dalle 10 alle 22.30, quindi tutto il giorno. Esattamente. E quindi si mangerà anche lì? Sì, sì, sì, si mangia come al solito. Ci sarà da mangiare e da bere, diciamo l'associazione preparerà della pasta, ci sarà il vino e poi lì comunque c'è anche il locale Archetto che comunque ci dà una mano, quindi da mangiare e da bere c'è, speriamo nel tempo ovviamente, ma abbiamo fatto anche tanti Bertani Dai, se te lo ricordi, anche sotto l'acqua, quindi si può fare. E poi comunque è una festa trasversale, non solo bambini ma tutte le età proprio. Eh certo, certo, certo. Cioè la parte, diciamo così, della mattina è un po' più dedicata ai bambini, quindi laboratori, spettacolini, spettacoli. Cioè Iulli quest'anno torna dopo 3 anni, quindi ci sarà sì la parte, diciamo così, dei bambini, poi ci saranno un paio di concerti fatti proprio dai bambini, quindi due orchestrine. E poi da lì insomma il palco si anima sempre più, finiamo come al solito con gli Spillo verso sera, insomma ecco i pargoli se ne vanno e c'è un po' di festa insomma per i grandi, dopodiché si smonta. Okay. La scorsa edizione ci avevi detto di qualche difficoltà con le istituzioni, quest'anno come sta andando? Decisamente meglio, sembra che tutto scorra liscio. Sembra che tutto sia a posto, ogni tanto capita pure questo e adesso ne siamo molto contenti, certo è sempre così, no? Sì. Un po' dipende anche dal, non lo so, dalle stelle evidentemente, però quest'anno va decisamente meglio. Quest'anno come tutti gli anni immagino anche allestimenti in strada di strutture. Assolutamente sì, ci sarà il solito gioco, il giocone. In legno. Ci saranno tutte le scenografie realizzate dai ragazzi della scuola, quindi il portale, poi c'è il palco chiaramente, ci sarà di nuovo il prato, ci saranno questi 100 metri quadri di prato, per chi non l'ha visti vale la pena. E invece la mostra riguarda gli studenti hanno fatto una mostra di illustrazioni insomma a tema, okay. Spazio. Okay. C'è l'evento Facebook, ci sono altri riferimenti web? C'è Facebook, oramai la fa da padrone, insomma, la brocca, mi credo. Io non è che non sono, come sai, non pratico, però sì, c'è l'evento Facebook, non so uno che può fare per spingere delle cose, i pulsanti, fate un po' voi. E allora ricordiamo la 16ª edizione della festa Bertani Dai a Roma, via Agostino Bertani, che è una delle traverse che parte da piazza San Cosimato a Trastevere, domenica 26 maggio 2019 dalle 10 di mattina alle 22.30 la sera. Un saluto e ringraziamento a Lorenzo Terranera che è uno dei curatori. Grazie a te. Un abbraccio Lorenzo, ci vediamo lì. Un bacione. Ciao. Ciao a tutti. Siamo all'agenda della settimana teatrale romana con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica, a cui lasciamo la parola. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti quanti, come va? Sento che tanto poi non possono rispondere, io lo dico, ma essendo ascoltatori, magari lo dicono ma nessuno li ascolta. E questo è il grande dramma dell'ascoltatore di radio, che non può comunicare mai realmente con quello che parla di qua. Bene, nel dramma totale dell'ascoltatore di teatro direi che è il caso di andare a cominciare a vedere un po' di che si tratta questa settimana a teatro, che andremo a vedere un po' per quello che poi resta nel nostro panorama cittadino, insomma pian piano le stagioni si stanno un po' affievolendo. Dunque, andiamo a vedere. Si parlava di inventaria e non mi dispiace l'idea di poter segnalare un po' di spettacoli del programma piuttosto vasto di inventaria, questo festival romano di fine stagione. Un festival un po' frastagliato, lo chiameremo così. Noi che ci sentiamo, ascoltiamo ogni martedì, non sappiamo che lunedì, per esempio, il 27 maggio, tra questi al Teatro Trastevere c'è una regia di Samuele Chiovoloni di Perugia con questo Almost Main, che verrà presentato appunto al Teatro Trastevere. Così come probabilmente io segnalerei il lavoro sempre al Teatro Trastevere, anzi ben due, insomma, uno è Malanova di Giure Magro, Flavia Gallo, e l'altro invece è firmato alla regia di Pietro D'Attola, scusami, Malanova è 22-23 maggio, mentre Il Viaggio, firmato da Pietro D'Attola con Federica Carruba Toscana, Flavia Germana dell'Ipsis e comunque tutti quelli che hanno un doppio nome o cognome, 24-25-26 maggio, appunto, sempre Teatro Trastevere. Altri lavori poi li segnaleremo più avanti, perché ce ne saranno fino alla 10 di giugno, che sarà insomma un po' verso la chiusura. Questo è quanto per ciò che riguarda inventaria. Andiamo adesso a vedere cosa succede al Teatro Vascello questa settimana, perché Alessandro Prete firma la regia di questo lavoro di Luigi Bespulzi, che scrive e interpreta 25-26 maggio Blu Tramonto, credo sia nella sala studio, sì esattamente, nella sala studio. Ci sono giorni in cui basta poco per stravolgere tutto, per mettere in ordine ogni cosa. Blu Tramonto è un nome, il nome di uno scrittore. Quindi l'intreccio forte di pensieri, di desideri e paure, questo monologo Blu Tramonto che vedremo al Teatro Vascello per appunto i giorni 25 e 26 maggio. Andiamo a ricordare che al Teatro Eliseo continua fino a domenica Spogliatoi di Luciano Melchionna, mentre alcune cosine le vado a segnalare anche per il Teatro Studio 1. Se abbiamo sentito Lorenzo Deliberato, sentiremo anche lo spettacolo che è andato in scena le scorse settimane, ma questa è l'ultima settimana della rassegna e vedremo appunto proprio una prima assoluta firmata dallo stesso Lorenzo Deliberato con Mutter, che va al debutto giovedì fino a domenica 26, ed è la storia di una donna, Mutter, cioè madre, che cerca di sopravvivere ad ogni cosa, una donna che prima che madre, spogliata dall'istinto materno, è una donna che non conosce più umanità, sia per scelta che per necessità, quindi non conosce l'amore. Questo è il lavoro dedicato al personaggio di Anne Stirling, e che nasce dall'ego del lavoro brechtiano Madre Coraggio e i suoi figli. Uno spettacolo un po' violento, nervoso, isterico, così ce lo presenta Lorenzo Deliberato, lo andremo a vedere per valutarlo da noi. Quindi questo è quanto per ciò che riguarda anche lo Studio 1 per i giorni della Comune, mentre ti porto il 24 maggio non con il piano mormorava Carmen Placido del passaggio, ma al Monk, dove torna Ugo, le attrici, autrici e performer con il Dramedy Club tutto al femminile, un format ormai abbastanza stabile che appunto andrà in scena con monologhi, reading, stand up, saggi e storie sempre inedite al Monk appunto venerdì 24 maggio ore 21. Poi ti invito ad andare sul sito del Teatro di Roma per vedere, e anche del Teatro dell'Opera in realtà, i 10 incontri gratuiti che il Teatro dell'Opera in questo periodo fino a giugno offrirà, diciamo, alla cittadinanza. Adesso è un po' complicato dare degli appuntamenti precisi, ma insomma è il caso, sul sito del Teatro di Roma sicuramente qualcosa di buono c'è. Poi ancora c'è questo Teatro Kairos che presenta Il Tempo Non Esiste, e per questo che lo facciamo appunto il nuovo teatro del Teatro Stabile di Roma, non ho capito bene. Mai dal 23 al 26 maggio questo Teatro Stabile di Roma, che poi tanto stabile non ho mai capito se lo sia, appunto andrà in scena, sono registi Francesco Guglielmi e Jacopo Neri che curano questo programma settimanale appunto dal 23 al 26 maggio. Segnaliamo forse tra i tanti, dopo aver segnalato loro, l'unico lavoro non dei due ragazzi è quello di Alessia e Giovanna Patrisciano, Rena Torto, giovedì 23 maggio. Poi Teatro Ruota Libera al Centrale Preneste presenta domenica 26 alle 16.30, spettacolo un po' diciamo per bambini sicuramente, ma orario classico per i bambini della domenica, al Centrale Preneste Naufraghi per scelta, questo lavoro filmato dalla compagnia Los Cironautas, palcoscenico alto 1,80 m e sottile come un cavo d'acciaio. La scelta di accettare il rischio di cadere, come anche nella vita di tutti i giorni, stare in equilibrio è una ricerca audace per bambini e infatti è per tutto il pubblico, anche per adulti, così ci viene segnalato e ce lo andremo a vedere. Poi, allora, andiamo un po' appunto anche al Teatro di Roma, perché Marivaux, la doppia incostanza, regia di Lorenzo Lavia, 25 e 27 maggio, con gli allievi della scuola al della scuola del Teatro di Roma, sarà appunto al Teatro India per appunto questi prossimi giorni. Diversamente andremo invece la doppia incostanza, forse il titolo non l'avevo detto, ma prima di concludersi con i lavori appunto di India e Argentina, che un po' chiudono la settimana, io ti porto a Spin Time Labs, perché questo fine settimana, sabato 25 maggio, ci sarà Babele 2.0 senza di noi. Si inizia alle 17 con gruppi di lavoro e di riflessione, alle 19 inizieranno gli spettacoli firmati da Occhi sul Mondo, da Andrea Cosentino, Effetto Jolet, insomma un po' di bella gente che cerca di riflettere su questo tempo in cui c'è una collisione tra presente e mancato futuro, questo punto di contatto inesistente. Quindi andremo appunto a parlarne, a discuterne a Spin Time Labs sabato 25 di maggio. Ultime due cose che segnalo: la prima è che è al debutto fino al 30 maggio, dal 20 maggio, Non mi ricordo più tanto bene, scritto e diretto dalla drammaturgo anglo-francese Gerard Watkins, che porta un affondo sul concetto di memoria, sulla perdita dei ricordi, e costruisce un discorso simbolico sullo stare al mondo. Produzione Teatro di Roma, che però è presentata insieme al network europeo Fabula Mundi Playwriting Europe di BAV. Questo è appunto il lavoro che verrà presentato al Teatro India, e appunto in realtà è in scena da ieri, appunto è debuttato ieri, ma lo vedremo fino al 30 maggio, Non mi ricordo più tanto bene, con appunto la scrittura di Gerard Watkins. Ma il lavoro che forse segnaleremo per questa settimana è il ritorno a Roma di Tony Servillo, che firma la regia di Elvira da Molière e la commedia classica di Louis Jouvet. Elvira è appunto abbastanza un classico, fatto 30 anni prima da Streller, è già stato lo scorso anno in stagione, si accosta a Servillo, un personaggio molto molto attuale, che batte il pubblico all'interno di un teatro chiuso, quasi a spiare tra platea, con un maestro e una allieva, impegnati nel momento di una fenomenologia della creazione del personaggio. Questo è l'Elvira di Jouvet, questo è l'Elvira di Tony Servillo, che andremo a vedere dal 21 maggio, che lo sia stasera, fino al 2 giugno al Teatro Argentina. E qui, Federico, io chiuderei, è tutto. Ciao Simone. Ciao a tutti. Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.